I know you told me such a long time ago. Il merito che Ray Charles sia Ray Charles va tutto a Willie Pittman. You didn't love me no more. Mr. Pitt, come lo chiamava Ray, abitava nella sua stessa strada e aveva un negozio di alimentari. Il Red Wing Café, dove c'erano due cose che gli cambieranno la vita. Il jukebox nell'angolo, ripieno di fantastici blues, e il vecchio piano di Mr. Pitt. La prima volta che lo vede suonare, stava eseguendo un indiavolato boogie-woogie, un genere del quale era maestro. Il piccolo Ray aveva solo 3 anni, ma era rimasto ipnotizzato da quelle dita che volavano sulla tastiera. Il signor Pittman, vedendo quel bambino così eccitato, lo chiama, lo fa salire sulla panca e gli fa provare l'ebbrezza di suonare qualche nota. Da allora Ray era fisso al Red Wing, con Mr. Pitt sempre pronto a insegnargli qualcosa di nuovo, a spronarlo a provare. Evidentemente aveva capito prima di tutti che il piccolo Ray era un predestinato. Infatti, molti anni dopo, Ray aveva suonato per molti artisti e ottenuto il suo primo numero uno con la rivoluzionaria I Got a Woman. Is a little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Visto quel successo, nell'aprile del 55, Ray ripropone la formula, convertendo il classico inno gospel This Little Light of Mine in This Little Girl of Mine, facendo nuovamente il botto. Oh well, oh yeah. Oh well, oh yeah. Oh well, oh yeah. Oh well, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Do you know that this little girl of mine, I want you people to know, this little girl of mine, I take her everywhere we go. One day I looked at my suit was new. I looked at my shoes and they were too, and that's why love the little girl of mine. Do you know that this little girl of mine makes me happy when I'm sad? This little girl of mine loves me even when I'm bad. She knows how to love me right down to a T. If she does any wrong, you know she keeps it for me, and that's why love the little girl of mine. Do you know that this little girl of mine called me last night about 8? This little girl of mine told me that we had a date. She said that she'd meet me at 8:45. Believe it or not, but she was right on time, and that's why love the little girl of mine. Do you know that this little girl of mine knows how to dress so neat? This little girl of mine stops the traffic on the street. When the fellas start whistling, well, I don't mind. I can't blame them because she is fine. That's why love the little girl of mine. And that's why whoa! Nel 1952, Pircol Lee Moses Jr. forma un gruppo vocale con quattro studenti della Inglewood High School di Chicago, i Pircol Lee and the Five Stars, che hanno come manager il custode della scuola. Quando il leader parte per i militari, cambiano prima il nome in Cardinals, poi si accorgono che l'ornitologia era già stata tutta usata. Allora seguono la nuova moda di chiamarsi con un'auto di successo. E visto che non potevano usare Cadillacs, decidono per un lussuoso modello a due porte della marca, la Eldorado. Vengono scoperti dal DJ locale Al Manso in un concorso di talenti al Club Delis, che li vede vincitori. Il DJ li fa partecipare a una competizione sponsorizzata dalla VJ Records, l'emergente casa discografica che vantava a catalogo Jimmy Reed, Memphis Lee e John Lee Hooker. Gli Eldorados sfidano i quotati Spaniels e vincono sia il concorso sia il contratto discografico. Dopo alcuni singoli molto mielosi, di cui si salva solo questa più ritmata Little Miss Love, danno una scossa alla loro musica, lasciando da parte il romanticismo e avvisando tutti gli uomini di tenere le loro donne lontane dalla strada, perché finirebbero per bussare alla loro porta. Blow, blow, blow. Il 24 aprile del 55 registrano At My Front Door, conosciuta come Crazy Little Mama, un numero uno rhythm and blues per 18 settimane e 17° posto nella classifica pop. Immancabile, ovviamente, e improponibile, come sempre, una penosa versione del campione mondiale di whitewashing, il pluripremiato Pat Boone. Con un ritmo martellante, un fantastico sassofono e i deliziosi impasti vocali, loro sono The Eldorados e questa è At My Front Door. Crazy Little Mama Knock, Knock Knock. Crazy little mama come knocking, brother, knocking at my front door, door, door. Crazy little mama come knocking, knocking at my front door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. I woke up this morning with a feeling of despair, looking for my baby and she wasn't there. Heard someone knocking, much to my surprise, there stood my baby looking in my eyes. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. If you got a little mama and you wanna keep her neat, keep your little mama off my street. Same thing will happen like it did before. She come knock, knock, knocking at my door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Crazy little mama come knocking, brother, knocking at my front door, door, door. Crazy little mama come knocking, knocking at my front door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Knocking at my door. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Crazy little mama come knock, knock, knocking just like she did before. Blimp. Dig that cat, he's Dave Matthews. Il loro inventore è Samuel Buck Ram, un avvocato che nel suo tempo libero si dilettava a scrivere musica. Pare lo facesse bene perché il Duca Ellington e il Conte Bessie suoneranno delle sue composizioni. Buck intuisce il potenziale commerciale della fusione fra gospel e sofisticati arrangiamenti orchestrali. Così, nel 1954, fonda la Personality Promotion. Il primo gruppo gestito dall'agenzia sono i Penguins, un gruppo vocale che vende più di 1 milione di copie con questa Earth Angel. Love you forever and evermore. Il successo del gruppo fa correre molti artisti alla scuderia di Ram. Fra i tanti, Linda Hayes, una cantante di rhythm and blues, famosa per aver presentato a Buck suo fratello Tony Williams, che cantava in un quartetto vocale chiamato i Flamingos. Del gruppo fa parte anche il mitico Richard Berry, che se ne va per formare i sottovalutati Flares. La loro prima apparizione è nei cori di Nervous Man Nervous, del grande sassofonista Big J. McNally, uno che era passato nelle formazioni di Johnny Otis. Il gruppo s'accorge che c'era un altro gruppo ben più famoso con quel nome. Così, visto che dai DJ i dischi venivano chiamati piatti, cambiano il loro nome in Platters. Ram inserisce nel gruppo la quindicenne Zola Taylor, proveniente dal gruppo femminile The Queens. Il giorno delle registrazioni di un brano scritto dal proprietario dell'agenzia, la ragazzina è molto nervosa. Qualcuno ha la brillante idea di rilassarla con qualche bicchiere di vino. Ma Zola finisce in ginocchio sul water e le registrazioni fatte in seguito sono un disastro. Disco impubblicabile. Buck Ram, però, non si dà per vinto, certo del potenziale del pezzo. Così il 24 aprile riporta il gruppo in sala di registrazione, avvalendosi dell'aiuto di Ernie Freeman. Freeman propone una novità assoluta, arrangiamenti con la presenza di archi che, unite alle armonie vocali del gruppo, fatte del timbro limpido di Williams e dalla presenza della voce femminile della Taylor, rendono il sound unico. Il brano viene distribuito nel circuito rhythm and blues con scarso successo. Poi, dopo qualche mese, finisce sul piatto di Alan Freed, che inizia a promozionarlo, e da lì a poco sarà un successone da oltre 1 milione di copie, che resterà numero uno nella classifica rhythm and blues per 7 settimane e arriverà, incredibilmente, anche al 5° posto nella classifica pop, rimanendoci per ben 6 mesi. Sarà anche il primo pezzo nero a battere in vendita la versione bianca, a carico degli impresentabili Hilltoppers. La canzone l'avevano provata centinaia di volte. Una di queste, mentre la canticchiavano in macchina, il gruppo nota come il veicolo perda colpi. Spontaneamente, Tony Williams inizia a singhiozzare. Oh, oh, only you! Only you can to make all this world seem right. Only and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you, only you can to make all this change in me, for it's true, you are my destiny, when you hold my hand, I understand the magic. How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, just stop the train, cause I want to look around. I genitori erano in disaccordo su che nome dare al loro quarto figlio. Così lo chiamarono solo con due iniziali, la J e la R. J.R. Cash. Engineer to ring his bell and ask everybody that ain't asleep to stand right up and yell. Lavorare duramente i campi dall'alba al tramonto per raccogliere cotone bastava appena per la loro sussistenza. Ogni membro della famiglia dava una mano. Il piccolo J.R. raccoglieva quei piccoli batuffoli bianchi dall'età di 5 anni, ma quello che si dava più da fare era Jack, più grande di lui di 3 anni, amico, mito e punto di riferimento per il piccolo J.R. Jack studiava la Bibbia per diventare pastore e non si risparmiava sia nei campi di famiglia, sia per qualche lavoretto extra per gli altri membri della comunità. Nel maggio del 44, mentre lavorava con una sega circolare, Jack ha un terribile incidente. La sega lo taglia quasi a metà. Morirà dopo una settimana di agonia, segnando la vita di tutta la famiglia. Il padre, che ci dava col drinking, incolpa J.R. per la morte del figlio prediletto, arrivando a dire che gli era morto il figlio sbagliato. Il dodicenne J.R. rimane scioccato. Diventa sempre più introverso e taciturno. Trova rifugio nella musica, sia in quella della chiesa dove sua madre era istruttrice del coro, sia in quella che esce dall'unico lusso della famiglia, la radio, dove J.R. sta incollato ad ascoltare il country al Grand Ole Opry. Nel luglio del 56 si arruola nell'aviazione, dove deve cambiare il suo nome in John R. Cash, perché nelle forze armate era proibito l'uso di iniziali. Would you tell me the time? How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? Lo mandano in Germania con il compito di intercettare e decodificare le trasmissioni radio russe. Sarà il primo a sapere della morte del dittatore sovietico Joseph Stalin. Hey Porter, what time did you say? Durante il servizio militare, oltre a scrivere canzoni, si compra la sua prima chitarra, si insegna a suonarla e forma il suo primo gruppo con dei commilitoni. Nel luglio del 54 torna a casa e dopo un mese sposa Vivian Liberto, con la quale aveva avuto una fitta corrispondenza durante la naja. Per stare più vicino a suo fratello Roy, si trasferisce a Memphis. Il fratello maggiore, oltre a trovargli un lavoro come venditore di elettrodomestici porta a porta, gli fa conoscere due colleghi meccanici che suonano a feste e piccoli concerti benefici, Luther Perkins e Marshall Grant. Tutti e tre suonano maldestramente la chitarra con un repertorio gospel, un genere che Cash amava fin dall'infanzia. Un giorno alla radio sente That's Alright Mama di Elvis. Oltre a vedere la luce, scopre che è registrata proprio lì, a Memphis. I tre vanno a vedere Elvis, Scotty e Bill suonare sul retro di un camion i due brani del loro primo single. John viene a sapere da Scotty Moore che la chiave di tutto è Sam Phillips. Cash, illuminato dal messia, fa passare Perkins alla chitarra elettrica e Grant al contrabbasso. I Tennessee Three, come si erano battezzati, si presentano agli studi della Sun. Sam Phillips rimane impressionato dal magnetismo di Cash e dalla sua statura, ma quando lo sente suonare quel noioso repertorio di gospel bianco, dice loro di tornare con roba più vendibile. Colpito nell'orgoglio, Cash torna il giorno dopo con del materiale scritto da lui, questa A Porter, con il ritmo del treno che diventerà il suo marchio di fabbrica. Dopo la registrazione del brano, Phillips suggerisce una lieve modifica al nome del gruppo. Saranno Johnny Cash and the Tennessee Two, anche se inizialmente a J.R. non piaceva per nulla quel diminutivo tipico dei ragazzini. Come lato B, Cash voleva incidere un pezzo su di un tipo nella prigione di Folsom, ma Phillips preferisce una canzone triste dal ritmo lento ma incalzante. Siccome non avevano un batterista, Johnny mette della carta fra le corde e la tastiera della chitarra per attutire il suono e farlo sembrare un rullante. Ne esce un piccolo gioiellino dal suono unico, che diventerà il lato A. Cry, cry, cry. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try, try, try. Cause when the lights have lost their glow, you cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry, cry, cry. To wait till you come in. You stay a little while and then you're gone again. Every question that I ask, I get a lie, lie, lie. For every lie you tell, you're gonna cry, cry, cry. When your fickle love gets old, no one will care for you. Then you'll come back to me for a little love, that's true. I'll tell you no, and then you'll ask me why. When I remind you of all of this, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you'll want me then. It'll hurt when you think of the fool you've been. You're gonna cry, cry, cry. Il 15 maggio del 55, Bo Diddley è in studio con i suoi ragazzi per registrare un altro singolo. Non possono iniziare però perché manca l'armonica di Billy Boy Arnold. Billy Boy doveva suonare un pezzo scritto da lui, Diddy Diddy Doom Doom, ma qualche giorno prima aveva litigato, come quasi tutti gli artisti della casa, con quel furbacchione di Leonard Chess per l'annosa questione dei soldi. Il giorno prima di registrare con Bo, era andato alla VJ, aveva firmato un contratto e aveva registrato la canzone con il titolo di I Wish I Would, cambiando il testo ma mantenendo il Bo Diddley beat. Quando riescono a portarlo in studio, Billy Boy vuota il sacco, dicendo che non può suonare, mandando su tutte le furie il polacco. Bo si guarda in giro, chiede aiuto per i cori ai Mongols, al suo leader Harry Facqua di dargli una mano a sistemare i testi e, visto che passava di lì, chiede al geniale Little Walter di prendere l'armonica di Billy Boy e impreziosire il brano con uno splendido assolo. Così, con l'immancabile Jerome Green alle maracas, nasce Diddley Daddy. Il lato B è questa She's Fine, She's Mine, che diventerà un classico nella versione di Willie Cobbs con l'aiuto del fantastico chitarrista Sammy Lowborn per i Dead e gli Allman Brothers con il titolo di You Don't Love Me. Lui è Bo Diddley e questa è la contagiosa Diddy. I found her right here in the windy city. Somebody kissed my baby last night. My pretty baby cried, you know it wasn't right. Say, Bo Diddley, you know you're not your own man. I say, I love you, baby, with all my heart. Please don't never say we're apart. Diddley, diddley, dum, dum, dum, diddley. I wanna know if you do love me. Ciao, sono Gioia, Gioia De Vive, e ascolto Cioccolato Bianco perché è meglio da abbacchio. In the wee wee hours, that's when I think of you. Al contrario di molti musicisti afroamericani che venivano dalla povertà più assoluta, Charles Edward Anderson Berry era nato in una famiglia del ceto medio di St. Louis. La madre era professoressa, mentre il padre era carpentiere e diacono nella chiesa battista. I genitori con i sei figli vivevano nel ghetto nero di DeVille, situato al nord del centro, l'unico posto di St. Louis dove a un afroamericano era concesso avere delle proprietà. Una comunità all black di 3.000 abitanti che prendeva alla lettera il celebre discorso di Atlanta del presidente Booker T. Washington. Bianchi e neri devono essere uniti, ma separati come le dita di una mano. Inarrivabile! Nel salotto di casa c'era un pianoforte con il quale la famiglia faceva le prove per i canti del coro, dove il piccolo Charles cantava. Inoltre c'era un grammofono con vari dischi di una delle sue grandi influenze, Nat King Cole, l'afroamericano gentile che vendeva molto anche fra i bianchi. E soprattutto c'era una radio dalla quale usciva musica country. A 15 anni, accompagnato dall'amico chitarrista Tommy Stevens, riceve una tremenda ovazione al concorso scolastico Old Man Review con una versione di Confessing the Blues. Tre anni più tardi, nell'ottobre del 1944, si mette in viaggio con due amici a bordo di una vecchia Oldsmobile verso la città degli angeli. A Kansas City, però, commettono una bravata che costerà loro cara. Dopo aver rapinato pistola alla mano tra i negozi, rubano una macchina, ma vengono arrestati e condannati a 10 anni di prigione. Charles viene spedito al riformatorio di Algoa, dove forma un quartetto per la messa domenicale e pratica la boxe. Fortunatamente per la musica, verrà liberato dopo 3 anni, il giorno del suo 21esimo compleanno. Pensa a rigare dritto e si mette a fare il carpentiere con il padre e con il fratello maggiore, che gli dà il soprannome per il quale è universalmente conosciuto. In the wee wee hour. Per qualche tempo suona la chitarra in un locale all'est di St. Louis, l'Half Garden, con l'amico Tommy Stevens, poi, alla vigilia di Capodanno del 52, il colpo di fortuna. In the wee wee hour. Il gruppo dello straordinario pianista Johnny Johnson, il Sir John Trio, aveva urgentemente bisogno di sostituire il sassofonista Elvin Bennett, impossibilitato a suonare per colpa di un incidente. You say, but yet I wonder. Vista la data e la poca disponibilità di musicisti, la scelta ricade su Chuck Berry. Al repertorio della band, Chuck aggiunge alcuni pezzi di Nat King Cole e una buona dose di country. I sit alone and think of you. In poco meno di un anno ne diventa il leader e miglior attrazione di St. Louis Ike Turner permettendo. Con la volontà di incidere un disco, va a Chicago e su consiglio di Muddy Waters si reca alla Chess. Leonard gli dice di portare qualche demo, così Chuck torna a casa per fare delle registrazioni con il suo Chuck Berry Trio. All the things we used to do. La settimana dopo è di nuovo al 4750 di Southside Cottage con quattro canzoni, fra le quali questa Wee Wee Hours, che finirà sul lato B. Now friends, before there's too much been said, let's all dance this old tune called Ida Red. Lightning falling far in the great clock on the mantel, it's getting late. Curtains on the windows, snow is white. The parlor's flooding on Sunday night. I'd read, I'm plumb fool about I'd read. L'altra canzone scelta per completare il single è un brano che riscuoteva molto successo nelle esibizioni dal vivo, Ida May, con la melodia presa da Ida Red, una vecchia canzone folk registrata per la prima volta nel 24, ma con tantissime versioni con testi diversi nel corso degli anni. Ida Red sarà popolarizzata dal Red al Western Swing, Bob Wills nel 38, con un testo preso da una vecchia canzone dell'Ottocento chiamata Sunday Night. Somebody else in the parlor tonight. I read, I'm bumping about Ida Red. A Leonard Chess il pezzo piaceva molto. Le vendite del blues erano in calo e la casa aveva perso una buona fetta di mercato. Il proprietario voleva sterzare verso il pubblico bianco e quel suono spruzzato di country poteva essere la soluzione. Oltre alla musica, anche il testo era intrigante. Un frenetico inseguimento in macchina nel tentativo di fermare una ragazza traditrice. Il suo nome? Maybelline! Maybelline, why can't you be true? Can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my V8 Ford. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you con i sì e con i ma, la storia non si fa. Ma se McKinley Morganfield non avesse venduto quel mulo, sicuramente il blues di Chicago non esisterebbe e di rimbalzo nemmeno il rock. La somma ottenuta dalla vendita dell'animale la divide equamente. La metà spettava alla nonna che l'aveva cresciuto fin da piccolo e gli aveva dato quel buffo soprannome, Muddy Waters, per il suo amore per il fango delle pozzanghere del Mississippi. Con la sua metà, il 17enne si compra una chitarra di seconda mano. Il suo primo maestro è Son Sims, il leader di un quartetto dove Muddy fa il cantante. Dal grammofono di un vicino ascolta i grandi padri del blues, ma a fargli bollire il sangue è un concerto di Son House. House era un fuoriclasse con il bottleneck e Muddy inizia a copiarne lo stile. Il ragazzo suona nei locali guadagnando $2.50 a notte, 5 volte quello che prendeva per lavorare 16 ore come trattorista nei campi di cotone della piantagione di Stover. Nel 1940 prova fortuna a Chicago, ma nella Windy City il suo blues campagnolo non funziona. Così torna a Clarksdale, nel Mississippi, dove apre un juke joint. Le cose non vanno con fievele, ma Muddy si arrabatta, facendo il bracconiere di animali da pelliccia, il taxista abusivo con la sua vecchia Ford o raccattando bottiglie vuote per il suo moonshine. Nell'agosto del 41, due musicologi, John Ward III e Alan Lomax, vanno in quei luoghi desolati per cercare le radici della musica americana. Nella ricerca di Robert Johnson, vengono a sapere che è morto da qualche anno e indirizzati a Stovall per sentire Muddy. Il ragazzo, vedendo due bianchi nel suo locale, si insospettisce e pensa siano dell'Agenzia delle Entrate, per quella piccola distilleria che gli forniva qualche extra. Poco a poco, i due visi pallidi convincono Muddy delle loro buone intenzioni e dopo una bevuta registrano per la libreria del Congresso due pezzi, questa Country Blues e I Be's Trouble. Poco tempo dopo, il bluesman riceve 2 copie del disco e $20 inviati da Lomax. Il musicologo torna 2 anni dopo per inciderlo ancora e lo incoraggia a provare fortuna con la musica. Sarà la lite con il sorvegliante della piantagione a fargli prendere la decisione di lasciare il sud per Chicago. Muddy realizza subito che nei locali affollati e rumorosi della città è necessario l'uso dell'amplificazione per farci sentire meglio. I don't want you to be no slave. I don't want you to wake all day. I don't want you to be true. I just want to make love to you. Nel 44 lo zio gli regala una chitarra elettrica e grazie all'aiuto del mecenate Big Bill Bronzi che gli fa aprire i suoi concerti, si fa un nome in città. A notarlo per primo è Lester Melrose, con il quale registra 3 brani, prima di passare alla Aristocrats, rinominata poco dopo Chess Records. Negli anni 50 forma una delle migliori blues band di sempre, con una serie di talenti unici, come il chitarrista Jimmy Rogers, il pianista Otis Penn, il re dell'armonica Little Walter e Willie Dixon al contrabbasso. Il 24 maggio del 55, Muddy si mette in studio per rispondere a I'm a Man di Bo Diddley con uno dei suoi pezzi bandiera, Manish Boy, pieno, come no, di spavalderia mascolina. Nel brano c'è anche la rivendicazione di una richiesta di rispetto da parte della società bianca, abituata a riferirsi agli afroamericani con boy piuttosto che con man. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everything Everything gonna be all right this morning. Now when I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man, yeah! I spell M H I N, that rather than main, yeah! No B, oh child, Y, that spell managed boy, but a main, yeah! I'm a full grown man. I'm a man, I'm a rolling stone. I'm a man, I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. I made the moon, come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him H-I-N, that rather than main, no B, oh child, Y, that spell managed boy, I'm a man. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. Full grown man. Oh well. Oh well. Lucky Strike guest time now. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. Aver firmato per un anno a Shreveport, all'A Ride, costringe Elvis and Company a esibirsi nei locali, radio e feste negli stati vicini alla Louisiana. Con concerti quasi giornalieri nel profondo sud, si era conquistato un numero sempre crescente di fans, soprattutto di sesso femminile. In febbraio Elvis incontra il colonnello, che più tardi si mette a discutere con Sam Phillips su che direzione deve prendere la carriera di quel fenomeno. What's all right, mama? What's all right with you? That's all right, mama, just any way you do, that's all right. It's all right. That's all right, mama, any way you do. Parker fa capire senza mezzi termini che la Sun è un'etichetta troppo piccola e con distribuzione limitata a qualche stato del sud. Gli fa sapere inoltre che ha già preso contatti con la RCA. Sam Phillips ci rimane malissimo. Quell'uomo viscido gli avrebbe portato via quel bianco che cantava come un nero. Solo quando vedrà la montagna di soldi che gli pioverà fra le mani ritroverà il sorriso. Il colonnello organizza al gruppo un tour con un carrozzone di artisti nella parte sud-est del paese. Il 13 maggio suonano davanti a 14.000 persone a Jacksonville, in Florida, nel campo da baseball Gator Bowl. Alla fine della sua esibizione, Elvis lancia un invito alquanto provocatorio. Ragazze, ci vediamo nel backstage. Succede un casino. Scoppia un incendio ormonale e centinaia di ragazze dalle prime file si fanno largo fra le sedie e con la bava alla bocca salgono sul palco per prendersi quel bel pezzo d'uomo. Blue moon, blue moon, blue moon. Intervengono dei poliziotti e scortano il cantante negli spogliatoi dove c'è il colonnello che si sfrega le mani. Alcune tenaci si intrufolano da una finestra e, individuato l'obiettivo, gli saltano addosso come iene su una carogna, riducendo brandelli giacca e camicia e portando via pantaloni, scarpe, cintura e calzini. Stava iniziando la Elvis mania. I forgot to remember to forget her. L'11 luglio si mettono in studio per registrare il loro ultimo single con la Sun. Come lato A era stato scelto un brano scritto apposta per Elvis. I forgot to remember to forget her. Un brano che Elvis non voleva registrare perché troppo country. Cede solo quando viene aggiunto il batterista locale Johnny Barbero per dare più ritmo al pezzo. La canzone sarà la prima di Elvis ad arrivare numero uno nella classifica country con la ristampa della sua futura casa discografica, la RCA, che per $35,000, una cifra folle per l'epoca, compra anche l'intero catalogo delle registrazioni con la Sun. Il lato B invece è una delle migliori cose del periodo Sun, una rinnovata ed energica versione di un dimenticato blues di Junior Parker e i suoi Blue Flames, registrato nel 1953 proprio alla Sun. Di Scotty Moore, però, è preso dal lato B del singolo, la chitarristica Love My Baby. Love My Baby keeps a business to herself. Nel brano ci mette lo zampino anche Sam Phillips, che con l'effetto eco slapback, ottenuto utilizzando due registratori fuori sincrono, conferisce al brano un tono inquietante. Con un ritmo nervoso e veloce mantenuto per tutto il pezzo e una grande performance del re, questa è Mystery Train. Train Ride! Train Ride, 16 coaches long. Train a ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train. Coming round, baby. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. train, train coming down line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all mine, she's my all mine. Train, train coming round, round the bend, round, round the bend. Train, train coming round, round the bend, round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again, never will again. Quella canzone l'aveva registrata tre volte, nel 51 con Sonny Boy Williamson, l'anno dopo con il titolo di I Believe e nel 53 come She Just Won't Do Right, sempre con vendite decrescenti. Il pezzo risale al 1932, quando i fratelli Aaron e Milton Sparks registrano I Believe I Make a Change, seguita l'anno dopo da una versione di Kokomo Arnold, chiamata Sagefield Woman Blues, prima che Robert Johnson la facesse sua. È proprio con il mitico bluesman che appena diciannovenne inizia a suonare e migliorare la sua tecnica con la slide. Lui e Johnson formavano una bella coppia, condividevano la passione per l'alcol, le donne e il blues, con ordine sempre variabile a seconda della serata. Al duo spesso si aggiunge Rice Miller, all'epoca conosciuto come Little Boy Blue, ma che entrerà nella storia come Sonny Boy Williamson II, uno dei padri dell'armonica blues. Sarà proprio l'armonicista nel 51 a convincerlo a fargli da sessionman per il disco della Trumpet, I Said to the Blind, assieme a Willie Love e Joe Willie Wilkins. In quelle incisioni viene registrato a sua insaputa in quel memorabile pezzo suonato tanti anni prima con il bluesman che aveva venduto l'anima al diavolo, Dust My Broom. Il successo gli giungono molte offerte da varie case discografiche. Lui le accetta tutte, incidendo in molte etichette e provocando un tremendo caos nella sua discografia. All'inizio del 55 registra per la Flares dei pezzi con la Maxwell Davis Band. Niente di eccezionale, anche perché la band ha un suono troppo rhythm and blues che poco si sposa con la sua tremenda energia. Nell'estate dello stesso anno va a New Orleans assieme ai talenti locali Edward Frank al piano, Earl Palmer alla batteria e ci riprova con una versione che è pura dinamite. Yeah. La band è così dinamica e orientata verso il rock che mette in risalto la sua fiammeggiante slide. You just said it. Lui è the king of the slide guitar, Elmore James, e questo il riff blues per autonomasia, Dust My Blues. Per stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco. La storia del rock, quella vera.